piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Una rivoluzione nel mondo della scuola. È allo studio, infatti, un piano per rendere obbligatorio l'ingresso all'asilo già all'età di 3 anni. Ma attenzione, l'obbligo coincide in realtà con un diritto, quello di garantire, in questo modo, l'assistenza a tutti i bimbi italiani. Anche a quel 5% che oggi non è iscritto né alle strutture pubbliche né a quelle private e spesso per ragioni di disagio economico o sociale. Su 1,5 milioni di bambini in quell'età scolare, 900.000 frequentano le statali e ben 524.000 le scuole paritarie. Le prime comportano una retta mensile media intorno agli 80 euro, le seconde costano tra i 250 e i 450 euro. Tra le ragioni dell'anticipo scolastico dai 5 ai 3 anni, anche il miglioramento del profitto per il futuro studente. I bimbi che partono dalla scuola dell'infanzia hanno poi meno difficoltà durante tutto il percorso di formazione successivo, spiega la vice ministra dell'istruzione Anna Scani. È un dovere garantire a tutti questa possibilità. Ecco, in questa sintesi di TGCom 24 c'è tutto quello che è sufficiente in questa trasmissione di istituzionale che possiamo dire. Tutto quello che invece a me interessa oggi approfondire con il pubblico è la ricaduta emotiva a fronte di questa proposta di cui si ragiona in ambito della maggioranza, l'ha lanciata Nicola Zingaretti, il segretario DEM, ripresa dal vice ministro dell'istruzione Anna Scani. Insomma, si sta ragionando di portare l'età della scuola obbligatoria da 6 anni a 3 anni, cioè da 3 anni cominciano ad andare a scuola i bambini. Tanto sanno già praticamente leggere e scrivere, già hanno un tablet in mano, questo lo aggiungo io, già hanno un livello di elaborazione della realtà molto più alto di quello che tradizionalmente avevano i bambini quando è stata istituita, diciamo, la scuola materna, che è una legge del 68. Ecco, rispetto al 68, oggi un bambino di 3 anni è avanti anni luce. Quindi probabilmente c'è un'idea che parte da un'osservazione concreta, come ha detto la collega del TGCom 24, cioè comunque una fetta di bambini, il 5%, che non entrano mai in un asilo, perché per una serie di ragioni, per disagi sociali, ambientali, problemi economici, problemi legati alla famiglia, non si sa bene. Altri fanno delle scuole private, pagano grosse rette, se lo possono permettere, meglio così per loro. L'idea è che probabilmente, dato per scontato che ormai l'entrata nel mondo del lavoro, l'entrata nel mondo, diciamo, degli adulti è accelerata, deve essere accelerata, gli strumenti non essere dati uguali per tutti, deve essere ugualmente, equamente distribuiti in tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo grosse discrepanze fra il nord e il sud, fra i bambini che frequentano, appunto, ad esempio il nido pubblico, facciamo un esempio ancora prima, c'è un grosso livello. Calabria e Campania, lo leggo su un articolo del Corriere.it, solo il 2,6% e il 3,6% vanno a un nido pubblico. La media nazionale è il 12%, può arrivare fino al 24% in certe regioni. Comunque, quindi abbiamo probabilmente una idea generale che tutti i bambini avere uguale diritto di accedere al bene dello studio e della formazione. Visto che sono precoci, si può accedere prima. Si può discutere, però l'idea in sé ci sta. Se la scuola diventa obbligatoria a 3 anni, ci saranno maggiori investimenti, sia statali che regionali, sulla scuola obbligatoria, costerà meno alle famiglie, sarà un'idea più omogenea di formazione delle famiglie. E qui sorge però il problema opposto, visto che ci troviamo in una fase in cui ogni idea, ogni espressione, ogni proposta ha un forte significato politico e altrettanto viene presa con un forte senso di critica e avversione politica. Esce un titolo sulla Verità: il PD vuole toglierci i figli a 3 anni, che vede sotto un altro punto di vista questa proposta, quasi una sorta di esproprio statalista, quasi si tornasse a una specie di regime assolutista sovietico, i bambini tolti alle famiglie per essere educati dallo Stato. E c'è, guarda, dietro anche l'aleggiare dell'idea di Bibbiano, i figli tolti alle famiglie, sembra quasi un attentato alla famiglia tradizionale, come i bambini a 3 anni vengono già messi in un percorso scolastico obbligatorio, e le famiglie e l'istruzione familiare, il contatto con le mamme. E poi c'è anche sotto l'idea che è una maniera per minare l'educazione tipo religioso, perché le scuole e gli asili gestiti da istituti religiosi, ricordiamo che la tradizione era che gli asili fossero sempre in mano a suore religiosi. Ho fatto l'asilo dalle suore, quindi so bene cosa significa. E diciamo la frenata della Democrazia Cristiana allora, quando si istituì per legge la scuola materna, era proprio questa: cioè andiamo a togliere i bambini alle scuole e andiamo a mettere negli asili pubblici, dove in realtà diciamo chi aveva un punto di vista più laico riteneva giusto che fossero formati i bambini. Quindi ritorniamo a un problema che sembrava antico, arcaico, lontano: l'educazione dei bambini deve essere affidata alle scuole di un certo tipo, ci deve essere un indottrinamento, oppure deve essere affidata comunque a una sorta di solco tradizionale fatto di belle suorine, belle pregherine, belle mammine, bei papini. Beh, ecco, su tutto questo, visto che la piega è diventata questa, non ci interessa più tanto entrare nello specifico di questa idea, che ancora non è nemmeno una proposta di legge, è una bozza. Qualcuno ha detto sarebbe bello cominciare la scuola a 3 anni. Ecco, voi come la pensate? Da che parte state? Pensate sarebbe un bene che la scuola dell'obbligo iniziasse a 3 anni, con tutti gli annessi, una scuola dell'obbligo, quindi con dei programmi, con delle persone che seguono secondo un programma nazionale i bambini, o considerate questo sia una sorta di tentativo di rendere omogeneo, statalizzare, indottrinare, togliere a questa sorta di necessario contatto epidermico con le famiglie e i bambini sin dalla tenera età di 3 anni? Beh, per questo abbiamo pensato di sottoporvi a un referendum. In seno alla maggioranza di governo si sta discutendo la proposta di abbassamento della scuola dell'obbligo dai 6 ai 3 anni. Se questa ipotesi prenderà corpo, tutti i bambini di 3 anni dovranno frequentare la scuola materna senza avere la possibilità di starsene a casa. Secondo chi sostiene questa idea, i bambini che partono dalla scuola dell'infanzia hanno meno difficoltà negli studi ed escono meglio dal percorso formativo. E sarebbe dunque un dovere garantire questa condizione a tutti i bambini, anche a quelli che vivono situazioni di disagio economico e sociale. Chiediamo al nostro pubblico un parere sull'ipotesi di introduzione alla scuola obbligatoria a partire dai 3 anni. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete più... 1. Scolarizzatori precoci. Giusto rendere obbligatoria la scuola dai 3 anni. I bambini sono molto più precoci ed è importante subito cominciare a formarsi. 2. Antistatalisti piezzecoristi. Lo Stato non può decidere di portare per forza i bambini di 3 anni a scuola. Vogliamo essere liberi di tenerceli a casa e allevarceli secondo i nostri principi. 3. Interventisti emergenziali. Sarebbe auspicabile che l'obbligo riguardasse in qualche modo la tutela di bambini che effettivamente vivono in condizioni di particolare disagio familiare o sociale. Allora, quando facciamo un sondaggio dobbiamo dare, se possibile, almeno 3 opzioni, sennò diventerebbe una sorta di referendum. Invece questo è un sondaggio in cui abbiamo allargato il ventaglio delle possibili opinioni, anche forzando quello che in questo momento non è stato detto dalle poche anticipazioni che sono state fatte. Quindi le categorie sono: prima categoria, scolarizzatori precoci, sì, a tutti gli effetti, a 3 anni, sono già dei piccoli geni, quindi tanto vale non fargli perdere altri 3 anni a mettere in fila le assicelle, cominciamo subito a farli studiare, arriveranno alla scuola elementare che già hanno degli strumenti, quindi ci avvantaggeremo, arriveremo prima a una formazione di tipo universitario e ci affacceremo più precocemente, con maggiore livello di specializzazione, al mondo del lavoro. Quindi un discorso a medio-lungo termine. Antistatalisti, piezzecoristi, è un po' la posizione espressa dalla Verità, ma siamo pazzi. Togliere i figli alle famiglie con lo spettro di Bibbiano che incombe vuol dire chissà in quale mani metterli, chissà quale formazione dargli, magari... Dico io anticipo, perché poi lo leggo tra le righe, anticiparli a un pensiero omologato di sinistra, la teoria gender, queste cose qua, ne facciamo tanti piccoli soldatini dell'impero social comunista e li togliamo naturalmente al calore delle famiglie che li forma, li fa star bene, li fa crescere con i buoni principi. La terza ipotesi che abbiamo messo noi, studiare un sistema che comunque non ci sia questo abbandono prescolastico, capire e vedere laddove ci sono delle situazioni di particolare disagio, di indigenza o di impossibilità o difficoltà ambientale mandare i bambini all'asilo, aiutare le persone e far capire che anche a 3 anni è un diritto del bambino di acquisire precocemente, secondo un'evoluzione che è in corso indubbiamente, degli strumenti cognitivi, della vivacità, dell'intelligenza sociale dei bambini. Quindi dice, a 3 anni non perdiamo tempo a farli soltanto giocare, andare ai giardinetti, cominciamo a farli lavorare su l'idea che devono formarsi, devono avere degli strumenti, devono acquisire strumenti culturali. Questo da un certo punto di vista mi sembra confortante. Oggi un bambino a 3 anni ha in mano sicuramente un tablet dove può giocare con TikTok, può accedere ai social, può guardare quello che vuole, più o meno, non mi venite a dire ci stiamo attenti, o comunque ha una sua spiccata manualità a muoversi attraverso gli strumenti digitali. Tanto vale appunto dargli anche gli strumenti e l'orientamento perché ciò avvenga in un solco che almeno in parvenza assomiglia a un percorso culturale. 800240024. Elisa, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo dalla provincia di Bologna. Come la pensa rispetto a questo nostro sondaggio? Io sarei per il meno uno, ossia io vorrei proporre il nido addirittura obbligatorio per tutti. Primo perché i bambini stanno benissimo in mezzo ai bambini, ci sono delle maestre, senza mettere dei casi particolari, che sono bravissime e che mettono in grado i genitori di tornare a lavorare. Lei è maestra al nido, il suo mestiere? Io non sono maestra al nido, ma il mio bimbo ha iniziato ad andare al nido a 4 mesi perché ho iniziato a lavorare subito e mi sono trovata benissimo perché le regole sono fondamentali nella vita di tutti i giorni. Quindi lei è convinta, per come si è evoluta la società, tenere ancora questa sorta di feticcio emotivo che deve essere il ventre caldo in cui si sta più tempo possibile, mettiamoli subito in carreggiata, così almeno capiranno anche loro che la vita è ben diversa. Sì, ma anche perché i nonni, fortunatamente per chi ce li ha, se ci sono, sono un valido aiuto, ma comunque non danno al bambino tutte le regole che gli serviranno poi quando saranno grandi. Poi diciamoci la verità, il nonno equivale al passato. Se vogliamo cominciare a... Sì, è vero. Il passaggio generazionale è giusto che ci sia, ma che la formazione sia meno passatista e sia più vista, visto che ormai è tutto più dinamico, tutto più veloce, sono d'accordo anch'io, devo dire, un po' mi sbilancio. Lei dalla sua esperienza dice ben venga. Giovanni invece, Giovanni buongiorno. Giovanni. Salve. Allora, l'obbligatorietà è intollerabile. Mi spieghi perché? Vediamo di capire dettagli, diciamo, il suo punto di vista, se può lo argomenti. Sono contrario allo Stato che ti spia dal buco della serratura e che entra in ogni qualsiasi dettaglio della tua vita, della vita tua e dei tuoi figli. Assolutamente contrario allo Stato che ti obbliga alle vaccinazioni, allo Stato che ti obbliga... Vabbè, adesso scusi Giovanni, che c'entra le vaccinazioni? No, l'obbligo, è il discorso dell'obbligo, cioè questo qui è un dibattito culturale. Ma lo Stato non è l'obbligo, se viviamo una società in cui siamo tutti in qualche maniera responsabili gli uni anche del benessere degli altri, le vaccinazioni è un tema mi sembra già lungamente dibattuto, non è un obbligo, è un discorso di salute pubblica, di benessere generale. Rimane un obbligo, cioè è una legge. Le leggi sono la nostra libertà. Vabbè, ho capito. No, in questo caso qui assolutamente non sono la nostra libertà. In questo caso qui sono la nostra coercizione, questo tipo di legge. Cioè io e la mia persona e dei miei figli decido io e non lo Stato. Il suo punto di vista, io rispetto il suo punto di vista, però capisce che se tutti avessero il suo punto di vista sarebbe inutile in realtà avere uno Stato, avere delle leggi. Ognuno fa quello che vuole con i propri figli, va benissimo, lei è totalmente contrario. Rappresenta un punto di vista che sicuramente è rappresentato, perché le battaglie sono state fatte sul problema dei vaccini, erano proprio fatte da genitori dicendo a me non mi interessa che l'evidenza scientifica dica che è meglio vaccinarsi che non vaccinarsi e chi non si vaccina può essere anche a rischio degli altri. Dice io decido che non bisogna vaccinarsi, è un punto di vista, non sto a giudicare. Fermiamoci soltanto un attimo. Melog. chiami? Alice. E quanti anni hai? 3 anni. E oggi dove vai? All'asilo. E cosa c'è all'asilo? Tanti bimbi. E cosa fai con i bimbi? Li confondi. No, Beatrice. Chiediamo al nostro pubblico un parere sull'ipotesi di introduzione alla scuola obbligatoria a partire dai 3 anni. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se siete più... 1. Scolarizzatori precoci. Giusto rendere obbligatoria la scuola dai 3 anni. I bambini sono molto più precoci ed è importante subito cominciare a formarsi. 2. Antistatalisti piezzecoristi. Lo Stato non può decidere di portare per forza i bambini di 3 anni a scuola. Vogliamo essere liberi di tenerceli a casa e allevarceli secondo i nostri principi. 3. Interventisti emergenziali. Sarebbe auspicabile che l'obbligo riguardasse in qualche modo la tutela di bambini che effettivamente vivono in condizioni di particolare disagio familiare o sociale. Quella che avete sentito è una bambina intervistata dal padre il primo giorno di asilo in un canale YouTube. Bea, probabilmente dedicato a questa bambina, ha detto: io il primo giorno di scuola vado a scuola, i miei compagni li mando tutti a fanculo. Probabilmente è una cosa pensata, preparata, era un'intervista spiritosa da mettere sui social. Devo dire che questa idea, che sta spaventando alcuni ascoltatori, sta spaventando molti opinionisti, della scuola dell'obbligo da 3 anni, ma in realtà va a codificare una realtà di fatto, perché in Italia il 98% dei bambini tra 4 e 6 anni già va alla scuola dell'infanzia, anzi è un dato superiore addirittura alla media europea, che è il 94%, quindi siamo già d'accordo che i bambini vadano all'asilo. Forse si tratta, l'idea è quella di formalizzarlo in un percorso che diventi un percorso scolastico omogeneo, con delle materie, diventi meno intrattenimento di bambini per insegnargli alcune regole di buona educazione, del buon vivere, ma cominciare già a farli lavorare. Probabilmente sarà questa l'idea, ma in linea di massima mi sembra una cosa che già avviene, ma può essere, diciamo, sostenuta meglio dallo Stato, diventa un'idea generale. A me non spaventa assolutamente. L'idea dei nonni può essere una buona formula, interessante, simpatica, ma il nonno non può essere considerato una soluzione tampone, anche perché il nonno ha una sua vita. Mi ha detto che la parte del riposo lecito di uno che lavora tutta la vita deve essere di fare l'accompagnatore dei nipotini. È bello, divertente, riempie il tempo, ma può anche averci un po' di spazio per sé. Sono sempre queste soluzioni familiare arrangiate. Se si dice decidiamo che a 3 anni si va a scuola obbligatoria per tutti, saranno fatti investimenti e diventi scuola a tutti gli effetti. Allora sentiamo qualche ascoltatore. Lorenzo, cominciamo. Eccomi, ciao. Suo punto di vista. Certo, io sono assolutamente contro all'obbligo degli asili, diciamo, di partire la scuola così presto. Io sono convinto che ci debba essere una scelta, come c'è tuttora, come ha appena detto lei, il 98% dei bambini vanno alla scuola materna. Ci vanno quasi tutti, praticamente, sì. Certo, certo. Io, guardi, io sono convinto che sia giusto, però penso sia sbagliato il togliere la scelta. Il dire ok, è un bambino, preferisco magari tenermelo 10 giorni a casa, la disponibilità di una famiglia. Il problema secondo me sta lì. Poi io penso, guardi, non voglio interpretare, perché ancora si sa poco, più di quello che ho detto non si sa molto, sono dichiarazioni. L'idea è, visto che ci va il 98% dei bambini, facciamo uno sforzo generale perché questo diventi un impegno dello Stato, non è più un'opzione. Dobbiamo prendere atto che a tutti gli effetti il 98% degli italiani li manda per ragioni varie alla scuola dell'infanzia, quindi dobbiamo occuparci, diventare un diritto per tutti e deve essere anche gestita in una maniera omogenea, cioè su un'unicità, perché non essendo più una cosa opzionale diventando obbligatoria, dà tutti il diritto di fare una scuola a tutti gli effetti. Immagino che sia questo. Paolo, buongiorno. L'ascolto. Buongiorno. L'ascolto. Io sono favorevole all'ingresso. Spenga la radio, Paolo, però, sennò sento due. Luigi, scusa. Sono favorevole all'ingresso nella scuola, dico da persona che lavora nella scuola. Se io dico che è una triste necessità dover andare al nido fino a 2 anni, ma poi il bambino è pronto ad affrontare la realtà della socializzazione. Diciamo l'optimum sarebbe che fino a 3 anni sta in famiglia, se sì, si potesse. Nei primi 3 anni il bambino mette i fondamenti dell'intelligenza emotiva, successivamente si socializza e ha bisogno di apprendere, di fare in una scuola che sia ben organizzata e omogenea su tutto il territorio nazionale e che eviti, come succede oggi, che diventa, come dire, la prateria in cui tutti gli specialisti, compreso il sottoscritto, cercano poi di medicalizzare i processi. Allora mi spieghi un attimo, lei è un pedagogista, mi sembra di capire. Sì, sì, ecco, sì. Forse lei ha capito meglio di me il senso di questa proposta, di dare un senso omogeneo. Se diventa obbligatoria, non è che dipende, adesso, ognuno adesso, fa quello dottor, che vuole. Bravo, adesso dottor Nicoletti, nella scuola materna, chiamiamo l'esperto di inglese, l'esperto di musica, l'esperto di logopedia, sono anche un logopedista, l'esperto psicologo, eccetera. Noi abbiamo bisogno di una scuola dell'infanzia con persone molto preparate, con figure anche che affiancano queste persone preparate per demedicalizzare i processi formativi. Ultima cosa. Ma adesso chi decide? Chi decide, diciamo, il programma di un asilo a Perugia invece che a Catania? Ci sono delle indicazioni di natura nazionale, ma poi ogni scuola presenta il cosiddetto PTOF, piano dell'offerta formativa triennale, che più ne ha più ne mette, insomma. Quindi da come si nasce si può essere più o meno fortunati? Esatto. Sì. Dal territorio dipende. Io nasco in un piano che è fatto congruo e un altro magari che è fatto un pochino vengo più. Vengo in questo momento da una scuola di un piccolo paese della provincia di Macerata, dove hanno la fortuna di avere delle insegnanti che sono delle artiste fondamentalmente, e questi bambini si avvicinano all'arte in un modo eccezionale, quando sappiamo che l'intelligenza emotiva, come l'intelligenza cosiddetta cognitiva, come l'intelligenza del cuore, hanno bisogno di una propria armonia. Questo non è codificato in tutto il territorio nazionale. Quindi ben venga. Chi ci vuole qualcuno che studi un programma, cosa è esatto, giusto che faccia un bambino, anche perché hanno in mano strumenti informatici a 3 anni. Magari poi nessuno gli insegna cosa ci sia dietro. Ecco. Poi, ultima cosa, la Costituzione italiana prevede che se uno vuol tenere a casa il proprio bimbo, fino a 13 anni c'è possibilità di fare la scuola parentale e può educare come vuole il proprio bambino. Parla uno, che è una persona che lavora anche con molte scuole di tipo, come dire, non statali, dove la qualità, diciamo, dell'educazione è una buona qualità. Quindi un dissidente come l'ascoltatore di prima, che ne faceva una questione di principio, ha già la possibilità di tenere il bambino a casa in base a una legge costituzionale. Noi possiamo fare scuola parentale fino a 13 anni. Quindi fino a 13 anni, se volete, mettete il banco a casa, la lavagna. Ci sarà un controllo, immagino, su quello che avviene, però in qualche maniera può essere fatto. Dire, nel diciamo, sondaggio che lei propone, bisogna prendere una posizione. Io dico, se ben studiata, la scuola materna, lo dico da anni, è il primo punto di affaccio sulla società in maniera organizzata. I bambini con insegnanti molto preparati, un buon gruppo di altri educatori, psicologi, pedagogisti, un saper fare insieme le cose perché i bambini possano emanciparsi in spirito critico e libertà. Io dirò un'eresia adesso, secondo me a 3 anni un bambino può cominciare tranquillamente a studiare dei linguaggi di programmazione, fare del coding, visto che ha in mano uno strumento dalla mattina alla sera basato su questi principi, è bene che sappia. Non sono contrario alla tecnologia, ma ad un uso sapiente della tecnologia. Oggi, diciamo, c'è un uso poco sapiente, soprattutto nei primi 3 anni di vita, e forse dovremmo lavorare molto anche sull'educazione. Questa è una ragione in più perché ci dovrebbe essere un controllo più generale. Lucia, esatto. Buongiorno. Lucia, l'ascolto. Sono abbastanza in linea con quello che ha detto la persona che ha parlato prima, però vorrei mettere l'accento su un possibile equivoco che si può generare nell'ascoltatore. Cioè, facilmente qualcuno può pensare che la scuola sfratta, tra virgolette, il bambino alla famiglia o diventa addirittura alternativo alla famiglia. Ecco, mi sembrano dei toni un po' apocalittici. Noi non ci sostituiamo alla famiglia. Cioè, la scuola, parlo da dirigente scolastico, la scuola non ha mai avuto né quell'ambizione né quella pretesa. Noi svolgiamo un servizio in piena continuità con quello che è il territorio, con quello che è il retroterra anche familiare. Quindi non devono essere. Lei lavora nella scuola, Lucia? Sì, certo, faccio il dirigente scolastico. Ecco, quindi nessuno meglio di lei in questo momento, no, mi può dare degli elementi. Guardi, le assicuro, però qualche elemento, sì, dall'alto di tanti anni di esperienza ma i genitori hanno guardato alla scuola come un nemico o come un sostituto della famiglia. E mai neanche la scuola ha pensato di dire: beh, genitore, fatti da parte, che adesso ci siamo noi che sappiamo come funziona. Professoressa, però lei mi dà atto che è cronaca di questi ultimi anni: genitori coalizzati vanno a scuola a spaccare la faccia ai professori e agli insegnanti. Ma quelle sono eccezioni, però dall'idea di un senso che ormai si è perso un pochino un rapporto di fiducia e di ruoli tra scuola e famiglia, forse è bene ridarlo dall'età precoce, l'idea che comunque la scuola non è un nemico, non è qualcuno che ti strappa il figlio. La scuola non è un nemico, è una risorsa. Certo, poi quando ci sono problemi particolari, l'abilità è anche nel gestire quelli che sono dei conflitti. Quindi riusciamo, sebbene se non riusciamo delle volte a conquistarci i genitori, tanto da renderli nemici, questo è un problema più nostro che delle famiglie. Va bene, ci fermiamo solo un istante, Lucia, perché devo dare proprio la linea. È chiarissimo il suo punto di vista, a tra un secondo. Melog. Come ho detto all'inizio, viviamo in un momento difficile in cui è impossibile, se perlomeno è molto difficoltoso, affrontare e argomentare i problemi senza dover per forza cavalcare il pregiudizio. Quello che mi scrive un ascoltatore nel canale Telegram è atroce. Obblighiamo anche le famiglie con figli portatori di handicap ad affidarli a centri specializzati, così mamma e papà possono fare la loro vita serena e essere più produttivi. Non capisco il senso di questa grossa stronzata che scrive. Stiamo parlando in termini sereni di un altro problema, del fatto che a tutti gli effetti già il 98% di bambini vadano a 3 anni in una struttura scolastica, anche se è un asilo. Quindi tanto vale evitare, da questo punto di vista, che ci sia a macchia di leopardo una differente offerta scolastica, e lo Stato decide che investe più fondi e onora ancora di più il diritto dei bambini di andare a scuola, fornendo un programma omogeneo, studiato, pensato da chi per mestiere pensa questo. Non mischiamo i problemi per buttare sempre nel calderone qualcosa che possa alimentare il contrasto. Luigi, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Dopo i 2 interventi che ho sentito, che ho seguito, posso dire poco in più. Premetto che io vivo a Modena, quindi in Emilia, e qui la cosa che mi stupisce è un 98% a livello nazionale, significa, cioè non mi aspettavo una percentuale così alta, perché qui è di norma mandare i bambini all'asilo, quindi provengo da una visibilità del problema un pochettino particolare. Io ho indicato la terza, perché sia fuori dall'ideologia di un tipo o di un altro che sono state presentate, direi che c'è una terza via della ragionevolezza. Ci sono situazioni molto variabili, ci possono essere giustamente delle scelte, anche se qui appunto nella mia regione, che io sappia, vanno tutti i bambini in qualche modo all'asilo, e quindi non so, però il problema per molti è la scuola religiosa, ma penso che le scuole religiose, come avviene anche per gli istituti elementari, le scuole medie, i licei, saranno equiparate, riconosciute. Uno può avere il diritto di dire: voglio andare in una scuola privata, pago, voglio quel tipo di scuola. Non credo che sia che la cosa poi diventi per obbligo chiudano tutte le suore. Poi se uno vuole andare dalle suore, continua ad andare dalle suore, purché anche le suore facciano dei programmi che abbiano una omogeneità con quella che è l'indicazione nazionale. Poi mi sembra serve a questo lo Stato. Queste sono persone che dovrebbero studiare comunque quello che è il miglior percorso scolastico. È oggetto di discussione, di approfondimento, ma non vedo una cosa coercitiva. Sentiamo Mirko. Buongiorno, Mirko. Mirko? Sì, l'ascolto, sì. No, adesso tra l'altro devo andare a prendere mio figlio a scuola, che esce all'1, per cui ho poco tempo. Volevo solo aggiungere una piccola domanda. Ma avete appena detto che un genitore può scegliere, e questa mi sembra una buona cosa, se può scegliere di fare per esempio una scuola parentale, mi spiega per quale motivo serve una legge che obblighi alla scuola materna. Io ho deciso per motivi personali di lavoro di usare la scuola materna ottima che ho vicino a casa, ma se una persona come conosco invece di occuparsene direttamente, di fare una propria educazione, dare una propria educazione in base ai propri principi, non vedo qual è il problema. Per cui, ma può farlo, come ci ha detto, cioè l'insegnante che ha chiamato poco fa, la Costituzione permette ai genitori fino a 13 anni di fare la scuola parentale, chiaramente sotto osservazione, perché uno non può fare la scuola parentale e poi insegnargli, non lo so, a costruire le bombe a mano. Fare la scuola parentale devi comunque ogni tanto avere una verifica che il programma che svolge in famiglia sia adeguato, equiparato a quelli che sono i programmi pubblici. Questo varrà anche per le scuole, cioè penso che il principio sia quello, immagino, anche perché detto c'è poco ancora, ragioniamo su una cosa che ancora non ha fatto in tempo a uscire come proposta, già esplosa una polemica, sia quello di dire diamo un'unicità, un'osservazione, investiamo in questo, se si investe diventare un obbligo, perché non può investire su un'ipotesi, su dire chi va gli va, noi lo facciamo, ci investiamo, poi chi vuole andarci ci va, no, si decide che a un certo punto, ma in Francia dal 98 Macron ha abbassato l'obbligo scolastico a 3 anni, non mi pare che nessuno abbia avuto problemi, mi sembra da 3 anni che avviene così. Allora Simona, buongiorno. Buongiorno, Sante. Ascolto. Allora, niente, io normalmente sono per l'assoluta libertà dei genitori sulle decisioni prese sui figli, però su questa cosa ho cambiato un po' opinione quando mi sono trovata a fare, del volontariato ad una ragazza cerebrolesa che seguiva un metodo Doman di un fisioterapista statunitense che aveva scritto dei testi che si chiamavano leggere a 3 anni, imparare la matematica a 3 anni, e ho capito che sostanzialmente il cervello del bambino è una spugna, e se si riesce ad insegnare ai bambini tramite il gioco, i bambini hanno delle potenzialità enormi, e quindi secondo me potrebbe iniziare un percorso, e lo Stato si dovrebbe far carico di questo percorso per sviluppare queste potenzialità dei bambini. Sono oggettivamente pronti a fare cose molto prima di quello che pensiamo. Diciamo che lo Stato dovrebbe mettere allo studio il fatto che la società si è evoluta, che la percentuale cognitiva è aumentata nei bambini, perché a 3 anni sono molto più svegli. Io a 3 anni ero un allocco che giocava ancora con le costruzioni di legno, capito? Oggi a 3 anni fanno paura, capito? Io vedo delle scuole materne dove opportunamente stimolati i bambini imparano a scrivere anche a 4 anni tranquillamente, e allora mi chiedo perché frenarli se questa potenzialità c'è. Certo, è un discorso complessivo, perché come avviene poi non possono arrivare in una prima elementare, ci sono bambini a 4 anni che sanno già scrivere da 4 anni e bambini che ancora non sanno tenere la penna in mano. Per questo serve un percorso omogeneo per tutti, perché si diceva una volta, sai, inutile che gli insegni prima a leggere e scrivere, perché dopo si annoia in prima elementare. La prima elementare dovrebbe fare un passo avanti, le aste si fanno magari al primo anno d'asilo, in prima elementare già si programma magari una cosa del genere. Anna Maria. Sì, io telefono per dire che va benissimo prevedere la scuola dell'obbligo, la scuola materna è una grande cosa, l'asilo eccetera, però con cautela nei programmi, perché non bisogna togliere l'aspetto ludico, secondo me, dell'intrattenimento. Lo dico perché io ho mandato il mio figlio a scuola a 5 anni, non ha mai avuto problemi, è stato bravissimo eccetera eccetera, però i primi tempi lui si alzava la mattina alle 5 per poter giocare e a me mi si stringeva il cuore. Sì, ma la giornata utile sono i 12 ore. Quando torna da scuola può giocare quanto vuole. Ma sta con i compiti. Vabbè, a 3 anni non credo che lo ammazzeranno di compiti. Cioè, ci penseranno. Ma lo studio, va a 3 anni un bambino a scuola non è che va a studiare come un secchione, comincia a socializzare e è indirizzato. Cioè voglio dare fiducia a chi ha pensato questa cosa, che farà un programma adeguato, non è che fa un piccolo lager per bambini per metterli a lavorare subito. Così voglio sperare e pensare. È finito il tempo, mi sembra che generalmente il pubblico è più maturo di quello che sembrano le prese di posizione estremiste. Bisogna ragionare, pensare e vedere poi come maturerà questo tipo di proposta. Ricordo, l'istruzione parentale può essere fatta, ma è sotto controllo. L'idoneità del bambino che fa l'istruzione parentale comunque sotto controllo, non è che fanno quello che vogliono quando fanno fino a 13 anni la scuola dentro casa. C'è sempre comunque un controllo generale su quella che è l'istruzione del cittadino. Ci fermiamo, alla prossima.